Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Fra Elisabeth e Yolan Satmari vigeva una muta ma più che evidente alleanza contro di me. Si vedeva benissimo. Anche se parlavo della pioggia e del bel tempo, si scambiavano occhiate come due persone che da tempo ormai sapessero di che specie io fossi e di quali asserzioni fossi capace. Talvolta l'una sorrideva e dopo una frazione di secondo lo stesso sorriso si ripeteva sulle labbra dell'altra. Di tanto in tanto mi pareva di notare che Elisabeth si accostasse a me, tentasse di regalarmi un'occhiata furtiva, come se avesse voluto provarmi che lei in fondo apparteneva a me, solo che doveva ubbidire all'amica, contro la sua volontà e il suo cuore. Di che cosa si doveva parlare? Mi informai sul loro lavoro. Ne ebbi una conferenza sull'incapacità dell'Europa a riconoscere i materiali, le intenzioni, la genialità del primitivo. Quel che si doveva fare era riportare il gusto artistico, totalmente pervertito dell'europeo, sulla via giusta e naturale. I monili erano, a quanto capii, un genere di necessità. Io non avevo dubbi in proposito, lo dissi anche. Mi feci anche premura di concedere che il gusto artistico degli europei era pervertito. Solo non riuscivo a capire per quale motivo questo pervertito gusto artistico dovesse essere il solo responsabile del tramonto di tutto un mondo. Semmai era piuttosto una conseguenza, indubbiamente solo un sintomo. «Sintomo!» gridò la signora Yolan. «Te l'ho detto subito, Elisabeth, che è un inguaribile ottimista. Non l'ho forse capito subito, alla prima occhiata?» Così dicendo, la signora Yolan poggiò tutte e due le sue mani piccole e larghe sulla mano di Elisabeth. A questo movimento i guanti che la signora Yolan teneva in grembo le scivolarono a terra. Io mi chinai, ma lei mi respinse violentemente. «Perdoni», dissi, «sono un ottimista». «Lei e i suoi sintomi!» esclamò. Era chiaro che non capiva la parola. «Alle 8 parla Harufax sulla sterilizzazione volontaria», disse la signora Yolan. «Non te ne scordare, Elisabeth. Ora sono le 7. «Non me ne scordo», disse Elisabeth. La signora Yolant si alzò. Con una rapida occhiata ordinò a Elisabeth di seguirla. «Scusa», disse Elisabeth. Ubbidiente, seguì la signora Yolant alla toeletta. Restarono via un paio di minuti, sufficienti a me per chiarire a me stesso che se mi ostinavo a mettere ordine nella mia vita, non facevo altro che accrescere la confusione. Non solo mi smarrivo io stesso, bensì aumentavo perfino lo smarrimento generale. Ero a questo punto delle mie riflessioni quando le donne ritornarono. Pagarono. Non feci in tempo a chiamare la cameriera. Per paura che potessi precederle e pregiudicare la loro autonomia, avevano, per così dire, catturato la cameriera per strada, nel breve tragitto fra la toeletta e la cassa. Salutandomi, Elisabeth mi passò nella mano, di nascosto, un pezzettino di carta appallottolata. E via da Harufax, a sentire della sterilizzazione. Spiegai il bigliettino. «Alle 10 stasera al Caffè Museum, sola», aveva scritto Elisabeth. La confusione non accennava a finire. Il caffè puzzava di acetilene, vale a dire di cipolle marce e di cadaveri. Non c'era luce elettrica. Mi riesce estremamente difficile raccogliere le idee se ci sono degli odori penetranti. L'odore è più potente del rumore. Aspettavo con la mente intorpidita e senza la minima voglia di rivedere Elisabeth. Non avevo neanche più voglia di mettere ordine. Era come se l'acetilene mi avesse definitivamente convinto della reale arretratezza del mio sforzo di mettere ordine. Aspettavo ormai solo per galanteria. Ma non poteva durare oltre la cosiddetta ora del coprifuoco. E in fondo trovavo adesso che questa disposizione alla quale altrimenti mi sarei ribellato era un gesto molto provvido da parte dell'autorità. Di certo sapevano quel che si facevano queste autorità. Costringevano quelli come noi a deporre le loro qualità incongrue e a rettificare i loro deplorevoli errori. Tuttavia, Elizabeth arrivò, una mezz'ora prima della chiusura. Era bella come entrò a precipizio, una specie di animale in fuga, con la sua giacca di castoro, neve sui capelli, sulle lunghe ciglia, neve che si scioglieva in gocce sulle guance. Si sarebbe detto che scappasse dalla foresta per rifugiarsi da me. Ho detto a Yolan che papà non sta bene, cominciò. E già le si erano empiti gli occhi di lacrime. Cominciò a singhiozzare. Sì, singhiozzava. Sebbene sotto la pelliccia aperta facesse mostra di un colletto di foggia maschile con tanto di cravatta. Cautamente le presi la mano e gliela baciai. Elizabeth non era certo più nello stato d'animo di respingere il mio braccio. Venne il cameriere, già con l'aria insonnolita. Solo due lampade ad acetilene erano ancora accese. Pensai che avrebbe ordinato un liquore, ma invece chiese Würstel con rafano. Le donne in lacrime hanno appetito, pensai. Inoltre il rafano giustifica le lacrime. L'appetito mi commosse. Fui invaso dalla tenerezza, la proditoria, fatale tenerezza maschile. Le misi un braccio intorno alle spalle. Lei si appoggiò comodamente all'indietro, mentre con una mano intingeva il Würstel nel rafano. Le sue lacrime continuavano a scorrere, ma avevano così poco significato quanto le gocce di neve liquefatta sulla pelliccia di castoro. «Sono o non sono tua moglie?» gemette, ma suonò piuttosto come un'esclamazione di giubilo. «Certo», risposi. Bruscamente si raddrizzò a sedere. Ordinò ancora un paio di Würstel con rafano e birra. Poiché ormai spegnevano anche la penultima lampada ad acetilene, dovemmo disporci a lasciare il caffè. «Yolant mi aspetta», disse Elizabeth sulla porta del caffè. «Ti accompagno», dissi. Camminavamo in silenzio, l'una vicina all'altro. Scendeva una neve indolente, quasi putrida. I lampioni funzionavano male, putridi anch'essi. Avari e astiosi custodivano nei loro gusci di vetro un granello di luce. non illuminavano le strade, le oscuravano. Quando raggiungemmo la casa della signora Yolande Satmary, Elizabeth disse: «Siamo arrivati. Arrivederci». Mi accomiatai. Chiesi quando potevo farmi vivo. Feci l'atto di tornare sui miei passi. A un tratto Elizabeth mi tese tutte e due le mani. «Non lasciarmi», disse. «Vengo con te». Così la presi con me. Con Elizabeth non potevo entrare in nessuna di quelle case in cui probabilmente si ricordavano ancora di me per avermi conosciuta in passato. In questa grande, derelitta, buia città peregrinammo come due orfani. Elizabeth si teneva stretta al mio braccio. Attraverso la pelliccia sentivo il battito irregolare del suo cuore. Talvolta ci fermavamo sotto uno dei fievoli lampioni e io scrutavo la sua faccia bagnata. Non sapevo se erano lacrime o neve. Eravamo arrivati, quasi senza saperlo, sul lungo fiume Franz Josef. Senza che ce ne accorgessimo, attraversammo il ponte di Augarten. Continuava a cadere quella neve pigra e laida, e noi non dicevamo una parola. Un minuscolo lumicino, a forma di stella, brillò davanti a noi da una casa della Untere Augartenstrasse. Sapevamo tutti e due che cosa stava a indicare la stella. Ci avviammo in quella direzione. La tappezzeria era di un verde velenoso, come al solito. Non c'era illuminazione. Il portiere accese una candela, fece colare un paio di gocce e l'appiccicò sul tavolino da notte. Sopra al lavandino era appeso un asciugamano. In mezzo a una corona verde erano ricamate con filo rosso sangue le parole «Grüß Gott». In quella stanza, quella notte, amai Elizabeth. «Sono prigioniera», mi disse. «Yolande mi ha fatta prigioniera. Non avrei dovuto andarmene quella notte a Baden, quando è morto Jacques». «Tu non sei prigioniera», dissi. «Sei con me. Sei mia moglie». Volli indagare tutti i segreti del suo corpo, e il suo corpo ne aveva molti. Un orgoglio giovanile, allora lo ritenevo virile, mi imponeva di cancellare tutte le tracce che Yolande poteva aver lasciato. Era orgoglio, era gelosia. Lentamente, il mattino invernale si insinuava sulla tappezzeria verde veleno. Elizabeth mi svegliò. Sembrava un'estranea dal modo in cui mi guardava. Spavento negli occhi e rimprovero. Sì, c'era anche rimprovero nei suoi occhi. La sua cravatta severa, grigio argento, era appesa, simile a una piccola spada, alla spalliera della poltrona. Mi baciò piano sugli occhi. D'un tratto trasalì e gridò: «Yolande!» Ci rivestimo in fretta, con una indicibile vergogna. Era un mattino da dare i brividi. Piovevano minuscoli chicchi di grandine. Dovevamo fare molta strada. I tram ancora non passavano. Camminammo per un'ora, fino a casa di Elizabeth, con quella pioggia mista a grandine sulla faccia. Si sfilò i guanti. La sua mano era fredda. «Arrivederci!» le gridai dietro. Lei non si voltò. Erano le 8. Mia madre stava già facendo colazione, come tutti i giorni. Il rito del nostro incontro si compì come al solito. «Buongiorno, mamma». Mia madre mi sorprese oggi con un «Servus, ragazzo». Da lungo tempo non avevo più sentito dalla sua bocca quel saluto sbarazzino. Quando poteva essere stata l'ultima volta che l'aveva usato? 10, forse 15 anni fa, quando ero ancora liceale, durante le vacanze, quando mi era consentito di fare la prima colazione con i miei. Allora usava aggiungere talvolta l'innocente battuta che a lei doveva sembrare molto arguta, diceva cioè, indicando la poltrona su cui sedevo, «E così anche questo banco di scuola ti pesa?» Una volta avevo risposto «Sì, mamma», e per 3 giorni non avevo più avuto il permesso di sedermi a tavola. Quella mattina si dimenticò perfino di lagnarsi della marmellata. «Io non capisco», disse, «dove trovino tante barbabietole. Assaggia, ragazzo. È roba sana», hanno scritto. «Che il diavolo!» si interruppe. Le maledizioni non le diceva mai per intero. Mangiai barbabietole e margarina e bevvi caffè. Il caffè era buono. Notai che la nostra domestica mi serviva da un'altra caffettiera e capii che la vecchia signora aveva serbato per me il buon caffè Main, faticosamente ottenuto per vie traverse, e per sé si contentava di quella robaccia amara fatta di cicoria. Ma non potevo farmi accorgere che lo sapevo. Mia madre non sopportava che si scoprissero le sue piccole mosse strategiche. Bisognava fingersi ciechi. Era tanto superba che a volte poteva perfino diventare vendicativa. «E così hai incontrato la tua Elizabeth», disse senza preamboli. «Lo so, tuo suocero è stato qui ieri. Se mi ci metto con un po' di impegno, lo capisco perfettamente. È stato qui circa 2 ore. Mi ha raccontato che hai parlato con lui. Io gli ho detto che l'avrei saputo da te, ma lui non si è lasciato scoraggiare. Dunque, vuoi mettere ordine nella tua vita, ho sentito. Che ne dice Elizabeth?» «Sono stato con lei». «Dove? Perché non qui?» «Non sapevo, mamma. Era troppo tardi». «Così ti vuole tirar dentro in qualche affare», ha detto. «Tu non sei in grado di fare nulla. Tu non sei in grado di mantenere una donna. Non so in quali affari abbia intenzione di tirarti dentro, ma in tutti i casi dovresti metterci una parte di capitale. E noi non abbiamo nulla. È tutto investito nel prestito di guerra. Perso, cioè. Come la guerra. Ci resta questa casa. Si potrebbe, pensava lui, metterci un'ipoteca. Tu potresti parlarne col nostro dottor Kinover. Ma poi? Dove sarebbe il tuo lavoro? E quale poi? Ne capisci qualcosa, tu, di queste arti applicate? Tuo suocero se ne intende moltissimo. La sua conferenza era ancora più dettagliata di quella della tua Elizabeth. E chi sarebbe questa professoressa Yoland Ketskemet? Satmari, mamma, corressi. Sarà Sekeli, consentì mia madre. Allora, chi è? Hai i capelli corti, mamma, e io non la posso soffrire. E Elizabeth è sua amica? Un'ottima amica. Ottima, dici? Sì, mamma. Ah, disse. Allora lascia perdere, ragazzo. Conosco amicizie del genere per sentito dire. Mi basta. Ho letto molto, ragazzo. Tu non immagini quante cose so io. Un amico sarebbe stato meglio. Dalle donne è quasi impossibile liberarsi. E da quando è che esistono donne che sono professori? E di che cosa è professore questa Ketskemet? Satmari, mamma, corressi. Sarà l'Akatos, disse mia madre dopo aver riflettuto un po'. Allora, cosa speri di fare contro un professore donna, ragazzo? Un pugilatore o un attore, magari, sarebbe stato un altro discorso. Quanto poco conoscevo mia madre. Questa vecchia signora, che solo una volta alla settimana andava ai giardini pubblici per un paio d'ore a prendere una boccata d'aria, e che solo una volta al mese, allo stesso scopo, era solita andare in fiacchere fino al Praterspitz, era al corrente perfino delle cosiddette perversioni. Quanto doveva leggere, con quanta lucidità doveva riflettere e pensare nelle lunghe ore solitarie che trascorreva a casa, appoggiata al suo bastone nero, vagando dall'una all'altra delle nostre camere immerse nella penombra, così sola e così ricca, così sprovveduta e così sapiente, così lontana dal mondo e così esperta del mondo. Ma io dovevo difendere Elizabeth. Cosa avrebbe pensato mia madre se io non lo facevo? Era mia moglie. Tornavo ora dal nostro amplesso, sentivo ancora nel cavo della mano la levigata freschezza del suo seno giovane, respiravo ancora il profumo del suo corpo, ancora si rifletteva nei miei occhi l'immagine del suo volto con gli occhi semichiusi, persi nella beatitudine, e sulla mia bocca posava il sigillo delle sue labbra. Dovevo difenderla. E mentre la difendevo, cominciai ad amarla di nuovo. «Questa professoressa Satmari», dissi, «non può niente contro di me. Elizabeth mi ama, ne sono sicuro. Ieri, per esempio, mia madre non mi lasciò finire il discorso. E oggi?» mi interruppe. «Oggi è da capo dalla professoressa Alaski. Satmari, mamma, ma non faccio caso a nomi simili, ragazzo, lo sai, non mi correggere continuamente. Se hai l'intenzione di vivere con Elizabeth, allora devi mantenerla. Come dice tuo suocero, devi mettere un'ipoteca sulla nostra casa. Poi devi lasciarti tirar dentro in qualche affare, come dice tuo suocero. Che dico la nostra casa? È la tua casa. E allora questa professoressa, come diavolo si chiama, dovrà accontentarsi di fabbricare nuovi coralli con le pigne, in nome di Dio. Al pian terreno abbiamo ancora un appartamento libero, 4 stanze, credo, il portiere lo sa. Io ho ancora qualcosa in banca, faccio a metà con te. Chiedi al dottor Kniover quant'è. Cucinare possiamo farlo insieme. Elizabeth sa cucinare? Non credo, mamma. Un tempo io sapevo, disse mia madre. Me ne ricorderò di sicuro. La cosa più importante è che tu possa vivere con Elizabeth e lei con te. Non diceva più la tua Elizabeth. Io lo considerai un segno di particolare benevolenza materna. Vai in centro, ragazzo. Vai a trovare i tuoi amici. Forse sono ancora vivi. Che ne dici? Se tu andassi in centro? Sì, certo, mamma, dissi. E andai da Stelmacher, al Ministero della Guerra, per chiedere notizie dei miei amici. Stelmacher doveva essere rimasto sempre lì. Per quanto il Ministero della Guerra non potesse essere ormai più di un sottosegretariato di Stato, Stelmacher era sicuramente rimasto. Era rimasto, vecchio, canuto e curvo. Sedeva là, dietro la vecchia scrivania, nella sua vecchia stanza. Ma era in borghese, con uno strano vestito troppo largo che gli ciondolava di dosso e che per giunta era anche rivoltato. Di tanto in tanto si passava due dita fra il colletto e il collo, la stoffa rigida gli dava fastidio, i polsini gli davano fastidio, li ricacciava di continuo nelle maniche, spingendoli contro l'orlo del tavolo. Era abbastanza informato. Czojnicki era ancora vivo, abitava nel quartiere di Wieden. Andai da Czojnicki al Wieden.